È per questo che tutti gli uomini sono così appassionati di bricolage. Perché il bricolage dà sempre l'impressione che se qualcosa non funziona, si può aggiustare. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07. Oggi è giovedì 24 marzo del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Ho letto delle statistiche, perché mi piacciono molto le statistiche, che sostengono che ormai il 73 e qualcosa per cento degli italiani svolge lavori di intelletto. Ora, non bisogna essere scrittori o professori universitari per fare un lavoro di intelletto. Chiunque non usi le mani per fare altro che non sia battere sui tasti di un computer e starci seduto davanti per 8 ore al giorno, svolge un lavoro di intelletto, un lavoro intellettuale. Quindi, anche se in questo momento ad esempio siete in automobile, perché andate in giro a vedere o a comprare cose, anche se rappresentate qualche azienda o siete dei consulenti di qualsiasi cosa, anzi, soprattutto se siete dei consulenti di qualsiasi cosa, ecco, voi state facendo un lavoro di intelletto. E poi ci sono quelli che fanno lavori manuali. Ci sono muratori, falegnami, elettricisti, idraulici, macchinisti, ceramisti, piastrellisti, benzinai, operai specializzati e non, agricoltori, allevatori, pastori, motoristi, marinai, restauratori e tutti quelli che ora non nomino ma che fanno cose in cui servono le mani. Che poi nel lavoro manuale ci sia sempre anche una parte di intelletto, questo è verissimo ed è un'altra storia. Insomma, quello che voglio dire è che la divisione delle due tipologie di lavoro è molto netta e caratterizza un po' la vita di tutte le persone, no? Cioè, o stai a una scrivania o stai davanti a un tornio, o lavori con la testa o lavori con le mani. Ognuno di noi però fortunatamente non è solo la cosa che fa durante il giorno, quella di solito è una parte della sua attività umana. Spesso ce ne sono centinaia, a volte migliaia di altre. E di solito quelli che stanno ore a una scrivania, alla fine ci provano. Ci provano e si cimentano nei lavori manuali. Robe tipo scartavetrare le persiane, restaurare porte mobili, sistemare sciacquoni che perdono, ricamare all'uncinetto, assemblare radio a valvole, in alcuni casi ristrutturare la casa, addirittura delle volte costruirla, la propria casa. Insomma, fatta eccezione per chi ha la manualità di un bradipo senza le zampe, un sacco di persone si dilettano a fare cose che quando le hai finite sei contento perché vedi il risultato. Che poi, cioè, che alla fine è la differenza sostanziale tra lo spedire fatture o tenere la contabilità e costruire un vaso in ceramica, ad esempio, o restaurare una Vespa 50 Special. Ecco, se fate lavori di intelletto e di recente avete lavorato qualcosa con le vostre mani e ne siete fieri, io sono qui. 800240024 è il numero per chiamare in diretta e poi c'è il 349-238-6666 per mandare sms. Ad esempio, il lavoro di Paolino Corleoni è un lavoro manuale ma anche di intelletto. Comunque stiamo lì ad alzare cursori, a montare, esatto, non fai proprio il pianista. Beh, anche il pianista alla fine è esattamente un lavoro manuale e di intelletto. E adesso via messaggi di musicisti che mi prendono a colpi di clava. Esattamente questa cosa qua. Voi fate un lavoro di intelletto, quasi tutti lo state facendo, a meno che non siate un falegname che aveva la radio accesa o non siate un liutaio che sta ascoltando. Ecco, in quel caso oggi potete solo sentire. Tutti gli altri invece, tutti quelli che hanno lavori proprio in cui c'è semplicemente da far andare la testa, per qualsiasi cosa essa sia, che vi piaccia oppure no, l'avete fatto prima o poi una cosa in cui vi siete messi lì e avete smontato un oggetto, l'avete fatto in mille pezzi, l'avete risistemato, l'avete ricostruito. Magari ci avete messo mesi, magari ci avete messo anni, però quella roba lì alla fine vi ha dato una soddisfazione. Ecco, raccontatela. 800240024. Poi più tardi c'è un altro capitolo del programma che riguarda solo gli idraulici, ai quali vorrei parlare in separata sede, però lo farò un'altra volta, perché se uno vi chiama e gli date appuntamento la settimana dopo e poi lo rimandate la settimana dopo ancora, c'è qualcosa che non va nel sistema, c'è proprio qualcosa che non va, perché non è possibile che uno debba aspettare più che per un trapianto, no? Per avere un idraulico che venga in casa a sistemarti il bagno. Ma ve lo racconto più tardi, perché questo poi è quello di cui si parla oggi. 800240024. Antonella mi scrive sul profilo Facebook, che è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui. Dai merletti all'uncinetto di quando ero ragazza, e fino a qui è facile, fino alla posa del parquet di casa mia. La posa del parquet non è una roba da poco, devi mettere la soletta, ci devi mettere la colla, non si chiamerà colla, vabbè, ma ci siamo capiti, Lara. Ho sistemato da sola le persiane, grattate, ripulite, tinteggiate e rimesse al loro posto. E all'asilo nido dove lavoro non si fanno certo queste cose. Magda, sono receptionist di un hotel. Ma pesare, sciogliere, impastare, infarinare, infornare, presentare, vedere la dolcezza che effetto fa, è più di un hobby. Magda ha caricato anche sul profilo Facebook dei dolci, quindi evidentemente fa la pasticcera per quanto riguarda la manualità. Daniele, Vespa del 1962, totalmente arrugginita e non funzionante. Io non ho mai avuto la passione dei motori, e questo fa la differenza, perché se sei uno smanettone che da quando c'ha 15 anni monta carburatori del 19 sui ciao è un conto, ma se non hai la passione dei motori è diverso. Eppure per questa Vespa, manuali alla mano, ho fatto un lavoro di restauro da professionista ed ora luccica come fosse nuova. Ne sono orgogliosissimo e col sole di questi giorni lo potrò sfoggiare. Più tardi poi vi leggerò un pezzo che a questo proposito è perfetto, perché è tratto da uno dei testi di letteratura che è proprio il must a proposito della manutenzione, in questo caso della motocicletta, ed è esattamente lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, in cui il protagonista, il narratore, ma anche il protagonista è un ex insegnante universitario di estetica che si mette a ravanare e a sistemare la sua motocicletta. Manuela, aver potato un Ficus Benjamin o Benjamin 2 mesi fa perché era moribondo, e ora vederlo pieno di nuove foglie, praticamente pieno di voglia di rivivere. È la mia primavera in casa. Susanna, vabbè, ma le bomboniere per i battesimi e le comunioni dei figli, beh, però vale anche questo. Susanna invece, io creo capi in maglia su misura da donna, ricami in perle, applicazioni varie, tutto a mano, con ottimi risultati e anche soddisfazioni. E poi l'ultimo, Claudio, lavoro di intelletto, MS Office, credo che faccia, lavorerà in ufficio o c'entra con i computer, e con grande soddisfazione ho posato il parquet a casa. Questa cosa è una cosa che mi stupisce. Microsoft Office, sì. MS Office è Microsoft Office, sì, però non so se faccia il programmatore o semplicemente lavora con Office tutto il giorno. 800240024 oppure 349-238-6666. Si parla di lavori manuali, a voi il mio. E quindi è da domenica che sono senza acqua. Da quando sono andato al bagno, ho schiacciato il pulsante e non è successo niente. Il bello delle macchine o degli aggeggi tecnologici in generale è che difficilmente ti tradiscono. E se lo fanno, c'è un motivo molto preciso. Per esempio, se giro una maniglia, la porta si apre, giusto? Se non si apre, è perché è chiusa a chiave. Ma allora tu prendi la chiave, la usi e la porta si apre. Se ancora non si apre, è perché si è rotta una molla, ad esempio. Si è svitata una vite. È semplice, la spiegazione c'è sempre. Se il telefono si è spento, la batteria non funziona. Se la lampadina si è fulminata, si è spaccato il filo di tungsteno. Potrei andare avanti anche all'infinito. Ecco, con le persone invece non succede così. Nemmeno noi a volte sappiamo perché c'è qualcosa che non va. E non parlo della salute, no, perché in quello in realtà funzioniamo un po' come le automobili. Cioè, se non c'è benzina non andiamo, no? Come quando non mangiamo. Se si buca una gomma stiamo fermi, come quando ci rompiamo una gamba. Se la marmitta è intasata o il filtro dell'aria è sporco, la macchina stenta, un po' come quando siamo costipati. Noi esseri umani siamo un insieme di tubicini un po' come un'automobile. Certe reazioni chimiche o fisiche fanno sì che certi liquidi o energie si spostino e creino movimento e creino azione. E poi c'è l'anima. E in quello non siamo come macchine. E lì succedono cose che noi non comprendiamo. Anche se facciamo risonanze magnetiche, TAC, radiografie, ecografie, esami del sangue, delle urine, del capello, niente. L'anima o il cuore o la mente, chiamatela come volete, quando si rompe non sai come aggiustarla. E secondo me è per questo che tutti gli uomini sono così appassionati di bricolage. Perché il bricolage ti dà sempre l'impressione che se qualcosa non funziona, si possa riaggiustare. Una soluzione c'è, ci deve essere. E se è più difficile è meglio, perché trovarla darà ancora maggiori soddisfazioni. Io non sono proprio uno di quelli che amino il bricolage. Mio padre non me l'ha insegnato e non ho imparato da nessuno come si fa un buco nel muro col trapano o come si ripara un tubo che perde. Figuriamoci quando ho scoperto che dopo aver espletato un mio bisogno primario, al gesto del premere il pulsante non è corrisposto lo sciacquone dell'acqua. Sono stato preda del terrore. Mi sono paralizzato. Lì per lì l'abbiamo risolta temporaneamente con l'uso di bottiglie di acqua e di Coca-Cola, però trovare un idraulico è stato davvero un'impresa titanica. Ecco perché per alcuni giorni, da alcuni giorni siamo senza acqua, in bagno. Perché un tubo perdeva nel muro, abbiamo dovuto chiudere la saracinesca, che non è bello, e dentro di me spero non duri a lungo. There's a lot of things I'm doing I never thought I would do. There's a lot of places in the world that I will never go to without you. But right now I need to stay home and I don't need your company. Right now I need to be alone and I need you to stay away from me. Come on, brother. In bagno ci si va molto più spesso di quanto non si creda. Per lavarsi i denti, la faccia, per esempio, o per far uscire degli scarti di ciò che si è bevuto o mangiato. Che lo so che certe cose non si possono dire in radio, però lo sappiamo tutti di cosa sto parlando, no? E poi ci si va per lavarsi le mani, che è il principale gesto di igiene che ci ha allungato la vita nei secoli. Ecco, per tutte queste cose ci vuole l'acqua del bagno, quella che da domenica io non ho più. Certo posso lavarmi le mani e i denti in cucina, ad esempio, ma per altre cose devo chiedere ospitalità al bar sotto casa, che non è un amico, che non è un parente e che nelle ultime settimane non mi faceva nemmeno più la colazione perché preferivo andare al bar di fronte alla biblioteca. Insomma, una situazione abbastanza imbarazzante. È proprio in questi momenti che ti accorgi quanto siano comode le comodità. È banale da dire, lo so, suona male pure, ma è così. È un po' come in barca. Cioè, in barca sei scomodo. Sei sempre coperto di salsedine. Fa freddo mentre vai, ma fa un caldo torrido mentre ti avventuri in cabina. Non hai la TV, non hai l'acqua corrente, non hai il divano. Sotto i piedi non hai niente di fermo. In barca non si sta per niente comodi. E i primi due giorni te ne accorgi. Sì, te ne accorgi davvero. Ma dal terzo giorno, quando il tuo corpo capisce quanto è bello stare lassù, tutto passa in secondo piano. Te ne freghi di tutto. Perché hai il mare, gli amici, il vento. Invece in casa non ho né mare, né amici, né vento. Ma mi manca l'acqua del bagno. Non c'è niente di positivo. E sono tre giorni che non riesco a contattare un maledetto idraulico. Secondo me se avessi avuto bisogno di un cardiochirurgo l'avrei trovato prima. Perché io ho usato il metodo classico. Le pagine gialle. Sono andato sotto la voce idraulici e ho cominciato a telefonare. Che dico, se uno mette il numero sull'elenco, vuol dire che vuole essere chiamato. Perlomeno, io ho pensato così. E invece no. Ogni volta che chiamano idraulico sembra che lo stai disturbando. E che se ti hanno risposto dal cellulare, perché tu chiami un numero fisso, ma poi loro hanno un meccanismo che gli gira la chiamata sul cellulare, è solo perché sono buoni. Ma in realtà stanno facendo altro. E lo faranno per un sacco di giorni. Quindi, richiamare settimana prossima, grazie. Forse. Quasi quasi provo a telefonare alla Città del Vaticano e chiedo del Papa. Non lo so, è possibile che nel giro di un mesetto me lo passino, forse prima di avere un idraulico in casa. E allora ho dovuto fare quello che si fa in Italia, che è una cosa che odio fare. Ma l'ho fatto solo perché non ne potevo più di andare al bar, chiedere un caffè, andare al bagno sperando che nessuno ci andasse dopo di me. Ho chiesto a qualche amico se conoscesse un idraulico, uno bravo, uno disponibile. E la risposta è stata quella che non mi aspettavo. No. Ma ora, io mi sono detto, bisognava nascere idraulici. Desiderato dagli uomini perché aggiusta le cose come il signor Wolf, ben visto dalle donne perché risolve i problemi e perché lo puoi vedere gironzolare in casa anche con la luce del giorno, cosa che i mariti di solito non possono fare perché sono in ufficio. Ben pagato, molto ricercato. Stasera ho una dritta su quello che viene a fare i lavori nel condominio. Se sono fortunato pare che debba passare di qui per il riscaldamento. Io faccio così, metto via un bel po' di banconota da 50 euro. Poi quando citofono lo requisisco e lo caccio in bagno. Gli mostro i soldi e il cesso. Voglio vedere come se la cava. Secondo me il lavoretto me lo fa. Alla fine io ho bisogno di qualcuno che mi faccia i lavori. Io non sono mica MacGyver. Bentornate a casa! Chi ha preparato gli hamburger di MacGyver? MacGyver! Sono le 16:24. dispiace troppo, so che è una boia, lo so, Paolino, scusami, però 800240024, giusto per non farci mancare manco un 24. Allora, dov'è? L'ho perso. Ciao, progetto macchine industriali e forgio spade giapponesi, Giorgio. Ma quale parquet? Quelli che vendono adesso a incastro sono facilissimi. È un chirurgo, è manuale o intellettuale? Secondo me è manuale, cioè il chirurgo è lì col macellaio, comunque, con tutto il rispetto per il macellaio, no, e per i chirurghi anche, voglio dire, che sono nobilissimi, però è proprio, no, cioè tagliare, segare. Sono Marco di Varese, restauro affettatrici d'epoca, le mitiche Berkel. Fammi il favore, per piacere, di dire ai colletti bianchi di non cimentarsi nel restauro di quelle affettatrici, perché fanno casini e basta, dopo oltre a far danni vogliono lo sconto perché l'hanno smontata. Cioè loro arrivano con la fettatrice smonta, è un po' come quando vai a farti tagliare i capelli dal parrucchiere cinese, poi vai dal tuo parrucchiere e dici: per piacere, puoi fare qualcosa? Matteo, tutto si può aggiustare, ma mai nulla sarà più come prima. Oh Marcello, guarda, ti prego, non è periodo, Faccio lavorare molto la testa per far girare bene le mani. Sono un orafo, ma ho fatto una tettoia tutta in legno di 8 metri. Però, Francesco, è vero che non c'entra, però io stavo pensando proprio a persone che fanno lavori in cui non c'è quasi manco da usarle le mani. Tipo, sono ingegnere elettronico, e credo che l'ingegnere elettronico progetti più che altro, no? Durante la settimana, ma nei fine settimana aiuto i miei in pasticceria. Eccolo qua, Marco da Modena. Faccio l'impiegato da 13 anni. La più bella soddisfazione è aver fatto il rinfresco di Natale per l'azienda in cui lavoro. Le mani in pasta. Qua c'è dell'aziendalismo, però, Marco. Sono musicista. Andiamo con la telefonata subito. Sono musicista, ho voluto provare a fare un orto. Ci sono riuscito. Ho seminato stamane le carote nell'orto. Stefano da Milano. Oggi poi mi è arrivato questo messaggio qua. Mi è arrivato questo messaggio da Cosi, che mi diceva: io sto realizzando esperimenti di elettrolisi rigorosamente artigianali, sono due elettrodi messi in acqua per scindere idrogeno e ossigeno. Pronto Cosimo? Oh, dimmi tutto Matteo. Come stai? Ma da Dio, dai. Di dove sei? Sei di Livorno? Sono di Firenze. Sei di Firenze. Perché sembri di Livorno, De? Non ne ho la minima idea, forse perché... Senti Cosimo, tu che lavoro fai nella vita? Sono tecnico elettronico. Sei tecnico elettronico, e ci spieghi che cosa... Perché io mi ricordo qualcosa delle scuole medie, degli esperimenti di elettrolisi. Senti, io alle scuole non l'ho fatta stavolta, però l'ho vista l'altro giorno su YouTube, ho detto: ganzo, lo fo anch'io. No, aspetta, scusami, l'hai vista su YouTube perché l'hai cercato o ci sei capitato cercando un video di Madonna? No, hai visto quelle cose accanto, guardavo una canzone, non so che senso avesse. Sì. E accanto c'era questa cosa che bolliva, ma incuriosito. Ti ricordi che canzone era? Scusami, perché è importante. Era una canzone di Lucio Dalla. Perfetto, quindi cercando una canzone di Lucio Dalla si trovano esperimenti sull'elettrolisi. Sì. L'elettrolisi aiuta, tu mi scrivevi, dunque sono due elettrodi messi in acqua per scindere idrogeno e ossigeno. Costruita la cella, poi ci metto un pannello solare e via con la produzione gratis di idrogeno al posto del metano sui fornelli. Tra l'altro tu mi hai mandato, cioè non me l'hai mandato, l'hai caricata sul tuo profilo Facebook, però io poi la voglio caricare anche sul mio, la foto di questo bicchiere pieno di acqua giallastra con dentro tipo una spina, una spina... No, guarda, è proprio artigianale a bestia, sono due bulloni infilati nel tappo con la corrente che ci scorre in mezzo. Senti, e con questo mi ripeti che cosa riesci a fare? Riesci a non pagare più l'Enel? No, aspetta, calma, questa è una prova. In teoria ho visto gente, sempre su YouTube, che si fa tranquillamente il pieno alla macchina con questa cosa qui. In che senso, scusami? Nel senso, attacca i pannelli fanno corrente, estrae l'idrogeno, lo comprime, lo mette in bombola e poi lo metti nella macchina e quella va. Guarda, come l'impianto del GPL, cioè... Certo, detto così sembra semplicissimo. La cosa che viene fuori dal tuo racconto è che comunque con YouTube si salverà il mondo, probabilmente. Se non finisce prima YouTube ci si fa. Cosimo, ti ringrazio moltissimo e poi carico la foto, andate a vederla anche sul mio profilo, Matteo Caccia, io sono qui. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao, ciao Cosimo. Ciao. Adesso la borsa e poi, se sopravvive YouTube e il mondo, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. La foto di oggi sembra un'immagine terribilmente cruda a prima vista, ma non lo è. Lo sembra perché c'è un uomo a torso nudo con degli occhialini da piscina, con le braccia aperte proprio a croce, appoggiato a un muro, e tutto intorno al il muro, tra l'altro è bianco, ma anche addosso a lui, sul suo petto, sulle sue braccia, sulla faccia, ci sono delle chiazze rosse che potrebbero sembrare sangue, ma credo, guardandolo bene, che non lo sia. Credo che sia semplicemente pomodoro. Federico Bernocchi, 33 anni. Il sogno di prendere a pomodorate qualcuno, nello specifico un regista. Sono soddisfazioni che non è che ci si toglie tutti i giorni. Al Bravo Ma Basta Festival, dove il genio compensa la mancanza di mezzi, lo si può fare. Anzi, in realtà è esplicitamente richiesto. Andate a vedere bravomabasta.com e scoprirete che questo sabato a Milano di registi da prendere a pomodorate ce ne sono tanti, più di 30. Io sono qui. Bravo Ma Basta, secondo me è proprio un bel titolo per un festival di cortometraggi. No, bravo, bravo, però basta così. Questa, diciamo, non che diventi un'usanza, però effettivamente se qualcuno di voi ha qualcosa di cui raccontarmi, no? Qualcosa di cui parlare, che deve fare anche, che so, la sagra del paese, e quindi di lì a poco accadrà e c'ha una foto da mandarmi, perché lui, più che essere lì, sarà lì, vale tutto. Io sono qui, @radio24.it, oppure il profilo Facebook per mandare le foto è sempre quello. Matteo Caccia, io sono qui. Ciao. Michele, ciao, voglio ricordare al toscano che l'idrogeno è altamente esplosivo se lo si usa da grullo. Mario, sono docente universitario, ma impasto la frolla come pochi. Matteo, sono ingegnere gestionale, ma siccome guadagno poco, come secondo lavoro faccio l'idraulico e a volte il liutaio. Vedi, uno che le mani le sa, sì, infatti dopo lo chiamo ovviamente per la chitarra e per il cesso. Lavoro per un'azienda tessile, mi diletto a fare il consigliere comunale. Quale dei due è quello manuale? Non seguo. Sono progettista, sempre davanti al PC. Quando nevica con alcuni colleghi ci prendiamo un weekend e costruiamo iglù. Che bello a sera essere fisicamente stanchi davanti al barbecue. Ce n'è uno però simile, aspetta, stai lì, però sì. Elisa, responsabile e-commerce di giorno, artigiana celtica nel weekend. Con l'aiuto di mia nipote creavo rune di legno, di argilla, mantelli, calendari celtici e ricettari medievali, che poi vendevo nel fine settimana ai mercatini rigorosamente celtici in tutto il nord Italia da maggio a ottobre. Questa roba dei celti a me fa veramente ridere, perché... Vabbè. 349-238-6666 800-24-0024. Andiamo a Mantova da Simona. Pronto, Simona? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Se, che lavoro fai innanzitutto tu, Simona? Io ho una piccola azienda di prodotti medicali. Cioè è un'azienda farmaceutica? No, magari. Infatti, perché detta così sembrava era subito le sette sorelle. No, praticamente confezioniamo kit monouso per i reparti di dialisi. Ok, ed è tua l'azienda? Sì. Quante persone ci lavorano? Tre, sì, ok, è proprio una piccola azienda. Proprio piccola. Come vanno le cose però, Simona? Bene, non posso lamentarmi. Poi invece, manualmente, tu che cosa fai? Dunque, inerente a questa telefonata, praticamente circa 10 anni fa ho deciso di iniziare un tappeto a mezzo punto. Sa, l'hai preso alla lontana 10 anni fa, nel 2001? Sì, esatto, perché ho detto ce la faccio tutte le sere, ne faccio un pezzetto, solo che praticamente diciamo che la trama non ha disegno. Quindi io devo seguire il disegno su dei fogli che ovviamente cerco sempre di fotocopiare, di ingrandire. Sì, Simona, e scusami, poi... quando finirà questo? Sembri Penelope, detta così. No. Non finirà mai. Secondo me fra un annetto. Tra un annetto avrai finito. Sì, Simona, sì, allora, ormai ci siamo. Se fra un annetto io sarò qui, ti richiamiamo e vediamo a che punto siamo. Va bene, grazie d'accordo. Mille. Ciao, grazie, buona giornata. Te, ciao, ciao. Andiamo a Reggio Emilia da Antonio. Pronto, Antonio? Eccomi qua. Ciao, buongiorno. Sto seguendo, complimenti. Grazie mille. Tu sei chimico industriale? Esatto, io sono chimico industriale, quindi mi occupo di impianti, chimici, strumentazioni. Ok, quindi tu non truci tipo con l'elettrolisi, quelle robe lì, no? Fai progettazione, immagino. Ma sì, progettazione, oppure consigli ai vari utenti che ci chiamano per avere consigli e spiegazioni su quel che devono fare. A volte proprio devi dirgli cosa devono fare per fare quello che vogliono. Comunque siamo d'accordo sul fatto che sia un lavoro di intelletto, giusto Antonio? Sì. Poi però tu hai restaurato che cosa? Beh, restaurato, sì, più che restaurato, io siccome ho anche la passione del volo, sì, da ormai millenni, ho si fa per dire, prima facevo il paracadutista, poi mi sono messo a volare col Delta motore, che è molto più libero, e allora ho anche la passione, mi sono rimesso praticamente a nuovo il mio deltaplano motore, compreso proprio smontaggio di motore. Scusami, il deltaplano è quello, è il super leggero? È quella roba con l'elica? No. Viene definito ultraleggero anche ultraleggero, super leggero. Meno pesante di un aeroplano, però è quello che ha la classica vela triangolare sopra a delta. Con una grande elica posteriore di coda, bravo, giusto? Bravo, ok, bravo. Ok. Senti, tu l'hai restaurato nel senso che l'avevi comprato usato e l'hai sistemato o ce l'avevi? Sì, l'ho comprato usato, dopo ho avuto diciamo un piccolo incidente, nel senso che mi si è piegato il ruotino in atterraggio, allora ho deciso di tutto a posto però Antonio, tutto a posto. Sì, per bagno no, è sicurissimo, guarda, è un mezzo che per farsi del male bisogna proprio fare domanda in carta bollata. Senti Antonio, scusami, su quanto viene un deltaplano motore usato? Allora, usato, ecco, una bella domanda, perché da nuovo si puoi andare anche 20-25 mila usato, trovi tranquillamente tra i 2-3 mila euro, ovviamente oggetti non nuovissimi, ma come in tutti i posti, in tutti gli sport, c'è la moda. Certo, e quanto vale il tuo, poi ti saluto, adesso? Beh, il mio aveva rimesso addosso, cioè rimesso a nuovo come adesso, a un prezzo inestimabile, gli ho messo sulle ruote grosse ad andare, io vado giù in sabbia a Po, cioè proprio a terra nelle spiagge di Po, è un oggetto che non ha un prezzo. Non ha un valore. Antonio, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Roma da Sarat. Pronto, Sarat? Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sarat, dico bene? Complimenti per trasmissione. Grazie mille. Il tuo nome è Sarat, la sto pronunciando bene. Di dove sei? Sono originario della Sri Lanka. Io ho 36 anni, sto a Roma, però scusa per il mio italiano, ancora non sono imparato bene. Ma figurati, guarda, mi sembravi romano più che cingalese. Senti, tu che cosa fai nella vita a Roma? Senti, io costruisco amplificatori audio a valvole, a mano. Ma per chi? Per persone che chi vuole, capito? No, beh, lo immagino, per quelli che lo voglio dire, ma c'è un mercato per gli amplificatori audio? Ma sì, una piccola nicchia. Una piccola nicchia. Quindi tu adesso sei nel tuo studio, ufficio, sei buonanotte. No, ora laboratorio. Sono in macchina, vado a provare un finale da un amico, capito? Vai a provare, scusami, Sara? Un amplificatore finale. Senti, ma si trovano su eBay cose come gli amplificatori audio a valvole? Sì, trovano. Che tu compri i sistemi e rivendi? No, io progetto tutto questo lavoro, sia manualmente sia a parte progettazione. Allora faccio un lavoro manuale sia intellettuale. Ho capito. Insieme. Sara, da quanti anni sei a Roma, in Italia? 36 anni. No, aspetta, mi hai detto che hai 37 anni tu, giusto? No, io ho 36 anni che sto a Roma. Io ho 59 anni. Ah, perdonami. Ho cominciato a costruire, prime saldature ho cominciato a fare quando avevo 7 anni. Immagino, in Sri Lanka questo? Sì, sì. Ci torni ogni tanto? Ma raramente. Raramente, ormai sei romano. Sì. Grazie mille, Sara, buona giornata. Niente, anche a voi. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Bologna da Daniele, che è l'ultima, ce la facciamo, vero? Sì, ce la facciamo in fretta. Pronto, Daniele? Ciao Matteo. Ciao, senti, tu vendi prodotti informatici, leggo. Sì, io sono un venditore di mouse, tastiera, queste e cose. E poi però? Poi però quando mio babbo ha voglia, viene a casa mia, si porta una bella tannica di vino e facciamo la grappa. Ma scusami, ma non è illegale? Allora, per uso proprio, non, da qualche anno c'è una legge che si può fare se non la vendi. Ho capito, è la solita questione appunto dell'uso personale oppure no. Daniele, devo chiudere, ti saluto e ti ringrazio, buona giornata. Va bene, ciao Matteo. Ciao, grazie. Prima ve l'ho accennato, adesso non ho moltissimo tempo, ma vi leggo un pezzo che parla proprio di intelletto e lavoro manuale, lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Le idee cominciarono a prendere forma in seguito a quella che sembrava una piccola divergenza di opinioni tra John e me, su una questione di secondaria importanza. La questione era in che misura uno si debba occupare della manutenzione della propria motocicletta. A me sembra del tutto naturale usare la busta dei ferri e il libretto di istruzioni di cui è corredata ogni moto, provvedere da solo alle riparazioni e alla messa a punto. John è restio, preferisce che se ne occupi un meccanico. Avrei potuto pensare che questo particolare atteggiamento di John riguardasse solo la motocicletta, ma in seguito scoprì che si estendeva ad altre cose. Una mattina che lo aspettavo nella sua cucina, notai che il rubinetto del lavandino gocciolava e mi venne in mente che gocciolava anche l'ultima volta che ero stato lì. Poi questo episodio si collegò alla storia della motocicletta e mi si accese una lampadina in testa. In realtà, quello che John non sopporta è la tecnologia. Qualsiasi cosa abbia a che vedere con valvole, condotti e strumenti meccanici fa parte di quel mondo disumanizzato che John preferisce non conoscere e non averci niente a che fare. Non sono d'accordo con John. Non sono d'accordo per quanto riguarda la manutenzione della moto, ma non perché non capisca il suo sentimento verso la tecnologia. Penso solo che la fuga dalla tecnologia e l'odio nei suoi confronti portino alla sconfitta. Roberta, sono orgogliosissima del restyling dell'ingresso di casa. Montaggio cartongesso, perfaretti LED, applicazione modanature, stuccatura, carteggiatura, verniciatura. Tutto fai da me. E poi un SMS per il nostro amico di Firenze. È un chimico, va bene fare tutto in casa, però l'idrogeno non si può manipolare in casa. Si rischia di far esplodere tutto. Grazie a Paolino Corleone, a Viola Bottoni, a Stefano D'Andrea e a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?